Così sull'ordine nuovo viene definito il movimento dei consigli di fabbrica. Il movimento dei consigli di fabbrica attraverso la trasformazione delle vecchie commissioni interne in organismi che siano emanazione spontanea della massa che si governa da sé nel suo territorio nazionale di luogo e di lavoro, l'unità produttiva. Il consiglio di fabbrica ha tra i suoi compiti quello di impadronirsi del meccanismo dell'azienda per prepararsi a dirigerla. A Parma, dal 20 al 23 dicembre 1919, si svolge il terzo congresso dell'USI, l'Unione Sindacale Italiana Anarchica, che rappresenta 300.000 lavoratori. Il congresso delibera sui consigli di fabbrica. Considerata la concezione sovietica della ricostruzione sociale come antitetica allo Stato, dichiara perciò tutta la sua simpatia ed incoraggiamento a quelle iniziative proletarie come i consigli di fabbrica che tendono a trasferire nella massa operaia tutta la facoltà di iniziativa rivoluzionaria e ricostruttiva della vita sociale. A gennaio 1920 vengono attuati scioperi nei servizi pubblici come non era mai accaduto prima. I primi a scendere in lotta sono i tranvieri e quindi i posttelegrafonici, che dal 13 al 19 gennaio paralizzano il traffico postale, telefonico e telegrafico, ottenendo un accoglimento parziale delle richieste economiche e soprattutto il riconoscimento del diritto di sciopero, fino ad allora negato a questa categoria. Quando si conclude lo sciopero dei posttelegrafonici, inizia quello dei ferrovieri, altra categoria a cui era proibito scioperare. Dopo una durissima lotta, i ferrovieri riescono ad ottenere la giornata lavorativa di 8 ore, aumenti salariali e diritti sindacali. Anche i chimici entrano in lotta e riescono ad ottenere aumenti salariali consistenti inversamente proporzionali alle categorie salariali, cioè chi guadagna meno ha gli aumenti più alti. Tra il 16 e il 23 febbraio vengono occupate Lansaldo ed altre fabbriche nel genovese, in particolare a Sestri Ponente, continuando la produzione in autogestione, sotto la direzione del consiglio di fabbrica e dei metallurgici aderenti all'USI, e per solidarietà con loro anche a Conegliano, a Viareggio, furono occupate le fabbriche della Piaggio e dell'Ilva. Le occupazioni durarono 4 giorni, sono circa 20.000 gli operai coinvolti, poi le fabbriche vengono sgomberate e gli operai si riversano nelle piazze, sostenuti dalla popolazione, iniziano una trattativa col prefetto ed accettano un compromesso. Poco dopo è la Miani Silvestri di Napoli ad essere occupata. Qui la lotta verrà stroncata dalla repressione. A giugno vengono occupate le fabbriche Spadaccini a Sesto San Giovanni e l'Ilva a Piombino. Ed ora ascoltiamoci Contessa nella versione dei Modena City Ramblers. Che roba, contessa, all'industria di Aldo, han fatto uno sciopero, quei 4 ignoranti, volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei 4 straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza e picchiate con quello, scendete giù in piazza e affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa là dentro di libero amore faceva professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce, anche l'operaio vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente ne può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischia allora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sputategli addosso, la bandiera rossa gettalo in un fosso. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Il 29 febbraio a Milano, dopo un comizio, i carabinieri sparano senza motivo contro un tram pieno di operai e due vengono uccisi. Viene indetto lo sciopero generale, che è totale e paralizza la città. Lo sciopero continua nei giorni successivi contro le indicazioni di PSI e CGIL, seguendo quanto indicato dagli anarchici. Il 2 marzo migliaia di operai, sfidando il divieto, affluiscono in corte all'Arena, dove viene approvato un ordine del giorno che prevede il rientro in fabbrica per il giorno successivo, con l'impegno all'immediata costruzione dei consigli di fabbrica. A fine febbraio la ditta tessile Mazzonis licenzia 3.000 operai. Gli stabilimenti vengono immediatamente occupati. Il governo requisisce temporaneamente la fabbrica e impone un accordo sindacale che accoglie gran parte delle richieste e gli stabilimenti vengono restituiti ai proprietari. Il 21 marzo avrebbe dovuto essere applicata l'ora legale, mettendo gli orologi indietro di un'ora. Il 22 marzo alle industrie metallurgiche di Torino la commissione interna si oppone e tre commissari di reparto rimettono sull'ora solare le lancette dell'orologio della fabbrica. La direzione licenzia i commissari di reparto e multa la commissione interna. Gli operai entrano in sciopero, sciopero che si protrarrà per 3 giorni. Il giorno dopo, alle acciaierie Fiat, la direzione dichiara ineleggibili per un anno i membri della commissione interna. Anche qui i lavoratori proclamano lo sciopero e la direzione attiva la serrata. A Torino gli anarchici e il gruppo dell'Ordine Nuovo agiscono di comune accordo, scrisse Antonio Gramsci. Quando Garino, sindacalista anarchico, svolse questa tesi e la svolse con grande efficacia dialettica e con calore, noi, a differenza del compagno Tasca, fummo molto gradevolmente sorpresi e provammo una profonda emozione. L'atteggiamento del compagno Garino, libertario, sindacalista, era una riprova della profonda persuasione, sempre nutrita, che nel processo reale rivoluzionario tutta la classe operaia, spontaneamente, trova la sua unità teorica e pratica. Il 24 marzo la polizia occupa militarmente le officine metallurgiche. La lotta si allarga a gran parte delle fabbriche torinesi e la notte del 28 guardie regie e carabinieri occupano la totalità dei medi e grandi stabilimenti torinesi, mentre i cancelli vengono presidiati dalla cavalleria e da autoblinde con mitragliatrici. Il 29 mattina gli industriali torinesi proclamano la serrata, dichiarandosi disponibili a trattare con la FIOM, imponendo che nelle fabbriche gli operai non vengano a contatto con i loro delegati, salvo fuori dell'orario di lavoro, e che gli unici arbitri per le vertenze siano i capi reparto e i capi officina nominati dai padroni. Affluiscono a questo punto a Torino migliaia di guardie regie, carabinieri, polizia e soldati, che verso la fine del mese di marzo è in totale stato d'assedio, con truppe che bivaccano nelle strade e sulle colline circostanti e vengono piazzati i cannoni puntati verso la città. I dirigenti nazionali socialisti abbandonano a se stessi gli operai torinesi. Gramsci, in un articolo di alcuni mesi dopo, pubblicato dall'Ordine Nuovo, dirà: «Tutto questo movimento della classe capitalistica del potere di Stato per asserragliare Torino, per cogliere la classe operaia torinese in una fossa da lupi, non fu neppure percepito da capi responsabili della classe operaia italiana organizzata». E racconterà ancora Gramsci: «Lo Stato borghese aveva messo a disposizione degli industriali torinesi 50.000 uomini in armi ed in assetto di guerra con autoblinde, lanciafiamme e batterie leggere. Ma la lotta prosegue, non per obiettivi economici, ma per l'obiettivo politico dell'imposizione dei consigli di fabbrica come organi di potere e viene indetto uno sciopero». Ora, i consigli di fabbrica organizzano circa 50.000 operai a Torino. Ascoltiamoci la testimonianza diretta di Battista Santià, uno dei fondatori dell'Ordine Nuovo, insieme ad Antonio Gramsci. Noi abbiamo l'inizio del grande sciopero metallurgico chiamato cosiddetto della lancetta. Un operaio sposta la lancetta dall'ora legale sull'ora solare che la direzione aveva fatto mettere senza consultare gli organismi sindacali, gli organismi almeno della fabbrica. Ora, da questo momento, viene la serrata, gli operai sono cacciati dalla fabbrica a colpi di calcio di moschetto. Ciò provoca una fermata in tutti gli stabilimenti metallurgici di Torino, dove la serrata si allarga a tutti gli stabilimenti e sono fuori più di 50.000 operai. Questo movimento viene poi seguito dallo sciopero generale di 10 giorni, totalmente 30 giorni di sciopero. Di sciopero gli operai da questa lotta non è che combattevano per la storia della lancetta solo, i motivi erano più profondi, i motivi erano che chiedevano il controllo operaio, chiedevano la libertà degli organismi sindacali, cioè consigli di fabbrica che esistevano già, e le commissioni interne. Gli industriali volevano liquidare i consigli di fabbrica e limitare la funzione delle commissioni interne. Ora, indubbiamente, credendo di poter vincere con soprusi, violenze, eccetera, ma che gli operai invece non sono soggiogati e non accettano la sconfitta. Si costituisce un comitato d'agitazione che lancia un appello in cui viene scritto: «Noi affermiamo che la produzione oggi non può essere lasciata all'arbitrio dei capitalisti. I consigli di fabbrica sono l'organismo in embrione del nuovo potere dei produttori. non è questione di piccoli miglioramenti economici, è questione fondamentale. Ma gli industriali non sono disposti a patteggiare su questo e respingono ogni proposta. Il 13 aprile il comitato di agitazione proclama lo sciopero generale a Torino e provincia in solidarietà con i metallurgici. Le fabbriche rimarranno paralizzate per 11 giorni, poi entreranno in sciopero anche i ferrovieri. Si fermano quindi le ferrovie, i tram, le poste e i telegrafi, tutti i servizi pubblici e le aziende commerciali. La città è paralizzata. Allo sciopero partecipano anche 200.000 braccianti delle province vicine. Il 14 aprile lo sciopero si estende in tutto il Piemonte. Gli scioperanti sono circa 500.000. Il 18 aprile i ferrovieri di Livorno dirottano un treno carico di soldati diretto a Torino e il giorno dopo sono i ferrovieri di Firenze, Lucca, Bologna e Pisa che bloccano i treni militari carichi di truppe dirette verso il Piemonte. Il giorno successivo a Genova arriva in porto la corazzata Duilio, carica di soldati e di materiale bellico destinati a Torino. Ferrovieri, portuali e operai scendono immediatamente in sciopero insieme a quelli di San Pier d'Arena, Conegliano, Sestri e Rivarolo ed impediscono lo sbarco. Il 20 aprile il bollettino degli scioperanti torinesi pubblica un manifesto in cui possiamo leggere: «Oggi tutto il Piemonte è in movimento, ma perché la battaglia sia vinta ciò non basta. La classe operaia torinese non si è impegnata nella lotta per una questione di orario o di salario. È in gioco un istituto rivoluzionario, quello dei commissari di reparto e dei consigli di fabbrica, che non interessa soltanto una categoria locale, ma interessa tutto il proletariato comunista italiano». A Torino avvengono scontri con la forza pubblica in quei giorni. La cavalleria carica alla barriera Milano e alla barriera Nizza, mentre la Camera del Lavoro è circondata dalla polizia. Ma il movimento poteva vincere solo se fosse riuscito ad estendersi con la stessa forza in tutta Italia, cosa che non avvenne. Il 24 aprile però il comitato di agitazione emette il suo ultimo bollettino che annuncia: «I commissari di reparto, rilevata la mancata estensione del movimento per il controllo operaio a tutta Italia, riconosce che gli industriali sostenuti dalla forza armata della borghesia hanno ancora una volta imposto la loro volontà. Questa battaglia è finita, la guerra continua». Nel numero del 1 maggio 1920 il giornale L'Avanti pubblica l'elenco delle vittime operaie e contadine nel corso di un anno, dall'aprile 1919 all'aprile 1920. 145 morti e 444 feriti gravi. A Milano a giugno è un susseguirsi di scontri di piazza con frequenti sparatorie con i fascisti. Ci sono anche episodi di fraternizzazione fra soldati e manifestanti. Il 22 giugno a Milano viene convocato un comizio a cui partecipano 20.000 persone. Dopo il comizio parte un corteo non autorizzato che si dirige verso il centro, che viene fronteggiato dai carabinieri che iniziano a sparare. I manifestanti innalzano barricate, dalle quali rispondono armati al fuoco dei carabinieri. In serata i carabinieri uccidono a Ponte Venezia, sparando sulla folla, un lavoratore. Il giorno dopo è ancora sciopero. La questura fa molti arresti, fiancheggiata dai fascisti. Un carabiniere spara sui manifestanti ed uccide un operaio. La folla prende lo sparatore e lo giustizia. Lo sciopero continuerà anche il giorno successivo. Come diceva il bollettino del Comitato di Agitazione di Torino, ad aprile la guerra continua e nell'agosto e settembre 1920 si svilupperà il grande movimento dell'occupazione armata delle fabbriche. L'occupazione delle fabbriche ha inizio per una rivendicazione salariale degli operai per l'aumento del costo della vita, a cui gli industriali oppongono un netto rifiuto troncando ogni trattativa a metà agosto. Il 16 e 17 agosto la FIOM, in un congresso straordinario a Milano, decide di applicare dal giorno 21 lo struzianismo in tutte le fabbriche meccaniche e metallurgiche e in tutti i cantieri navali. Lo struzionismo consisteva nel rallentamento della produzione. Ogni operaio non doveva mai muoversi dal posto di lavoro, doveva essere rifiutato il cottimo, si doveva perdere tempo nelle piccole riparazioni, non dovevano essere più fatti gli straordinari. Ma gli operai, oltre allo struzionismo, iniziano il sabotaggio della produzione. La FIOM aveva dato indicazione, nel caso in cui i padroni avessero risposto con la serrata all'ostruzionismo, gli operai avrebbero occupato le fabbriche. Ascoltiamoci quindi ora la ballata dell'ostruzionismo. O-S-T-R-U-Z-I O-N-I-S-M O Ostruzionismo O-S-T-R-U-Z-I O-N-I-S-M-O Ostruzionismo. Cari compagni, per battere il padrone bisogna colpire la sua produzione. Presto la paghera. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Senza neppure uscir dall'officina noi possiamo mettere il padrone in rovina. Presto la paghera. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Nelle riparazioni faremo l'impossibile per impiegare il più tempo possibile. Viva la libertà. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Quando c'è l'ordine di lubrificare prima le macchine bisogna far fermare. Viva la libertà. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Non faremo lavori a cui non siamo addetti, non useremo utensili inadatti. Viva la libertà. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Se licenziano qualcuno per questi motivi si presenti ugualmente al lavoro tra i primi. Noi lo faremo entrare. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. E se una ditta proclama la serrata immediatamente sarà occupata. Viva la libertà. Ostruzionismo e sabotaggio sono le armi di chi ha più coraggio. Il socialismo è ormai vicino, edifichiamo il nostro destino. O S T R U Z I O N I S M O Ostruzionismo. Il 30 agosto all'Alfa Romeo di Milano i padroni attuano la serrata. Il 1 settembre la serrata viene effettuata in tutti gli stabilimenti metalmeccanici e siderurgici a livello nazionale. Il 30 agosto la FIOM invita gli operai a non uscire dai 300 stabilimenti siderurgici di Milano e di occuparli. Tra mercoledì 1 settembre e sabato 4 gli operai metallurgici occupano tutti gli stabilimenti della penisola se si eccettua la Venezia Giulia, dove però vi è una situazione politica tesissima con i primi scontri tra fascisti e socialisti e lo sciopero generale a Trieste. Gli operai si rendono conto che le occupazioni possono essere sostenute solo armandosi. Viene organizzata quindi la costituzione di squadre armate con rivoltelle, pistole, fucili e rudimentali bombe prodotte nelle officine. Si organizzano turni di guardie armati. Fin dai primi giorni di settembre quasi un migliaio di officine sono occupate dai lavoratori in tutta Italia. Gli occupanti sono circa 500.000, più di due terzi nelle città industriali del nord, ma ci sono occupazioni anche in Emilia, nel Veneto, in Toscana, in Umbria, ad Ancona e Roma, a Napoli e a Palermo. Nella sola Torino gli occupanti sono 100.000. Alla SPA di Torino, in un'assemblea, un operaio sintetizzò così la situazione. In un momento come questo non solo sentiamo il dovere di assumerci le più gravi responsabilità che derivano dalla lotta, ma vogliamo far conoscere ciò che noi pensiamo dell'occupazione e dove vogliamo arrivare. Per noi l'occupazione è un punto di partenza e non d'arrivo della presente lotta. Il proletariato deve lottare per prendere il potere nelle sue mani con l'aiuto dei contadini poveri. Il prefetto di Milano telegrafò il 4 settembre. Le maestranze che occupano stabilimenti metallurgici seguitano ad armarsi e a rafforzare le difese. Le autorità locali di pubblica sicurezza inizialmente non intervengono. È una battaglia decisiva che si esprime attraverso l'organizzazione e l'armamento delle Guardie Rosse. Alla testa di questa lotta furono l'Ordine Nuovo a Torino, i sindacalisti dell'USI in Liguria e nel litorale tirrenico, gruppi di bordighisti alla Fiat Centro o nell'Italia Centrale. Ascoltiamoci quindi la Guardia Rossa nell'esecuzione di Cesare Bermani. Quel che si avanza è uno strano soldato, viene da Oriente, non monta destrier. La manca allosa ed il viso abbronzato, è il più glorioso fra tutti i guerrier. Non ha pennacchi e galloni dorati, ma sul berretto scolpiti e nel cor mostra un martello e una falce incrociati, gli emblemi del lavoro. Viva il lavoro! È la Guardia Rossa che marcia alla riscossa e scuote dalla fossa la schiava umanità. Giacque vilmente la plebe in catene sotto il tallone del ricco padron. Dopo millenni di strazi e di pene, l'asino al fine si cangia in leon. Sbrana furente il succhion coronato, spoglia il nababbo dell'or che rubò. Danna per fame al lavoro forzato, chi mai non lavorò, non lavorò. È la Guardia Rossa che marcia alla riscossa e scuote dalla fossa la schiava umanità. Accorre sotto la rossa bandiera tutta la folla dei lavorator, rimbomba il passo dell'immensa schiera sopra la tomba del mondo che muor. Tentano invano risorgere i morti, tanto a che vale lottar col destin. Marciano al sole più ardenti e più forti le armate di Lenin. Viva Lenin! È la Guardia Rossa che marcia alla riscossa e scuote dalla fossa la schiava umanità. Quando alla notte la plebe riposa nella campagna e nell'ampia città, più non la turba la tema paurosa del suo vampiro che la svenerà. Che sempre veglia, devota e tremenda, la Guardia Rossa alla sua libertà. La tirannia cancrenosa ed orrenda più non ritornerà, ritornerà. Che la Guardia Rossa già l'inchiodò alla fossa nell'epica riscossa dell'umanità. Che la Guardia Rossa già l'inchiodò alla fossa nell'epica riscossa dell'umanità. A Firenze i giornali la domenica del 5 riferiscono scene festose e un'atmosfera di euforia. Alla Galilea occupata il cronista dell'Avanti racconta il quadro idilliaco della giornata di domenica, 4 luglio. La giornata scorre tranquilla tra canti e frizzi che denotano l'entusiasmo della massa operaia. Grammofoni, orchestre di mandolini e altri svariati divertimenti rallegrano le oziose ore domenicali. A Livorno, la Camera del Lavoro e la FIOM distribuiscono una moneta proletaria sotto forma di buoni lavoro utilizzabili per gli acquisti nei negozi, poiché garantiti dalle organizzazioni operaie. Su un articolo dell'Ordine Nuovo viene scritto: in tutte le officine si intensifica la produzione di bombe. A Torino, soltanto alla Fiat Lingotto, la polizia tenta un'irruzione per requisire le mitragliatrici che erano state posizionate da tempo, ma gli operai le hanno già spostate in vari stabilimenti e la missione fallisce. L'occupazione delle fabbriche a Torino, sin dai primi giorni, è caratterizzata dallo sforzo di organizzare un sistema di gestione operaia delle fabbriche metallurgiche che assicuri il coordinamento della produzione, degli scambi dei materiali, dei rifornimenti di materie prime, creando un comitato apposito presso la Camera del Lavoro. Nei primi giorni, fino alla domenica 5 settembre, la produzione è lenta, ma continua nei reparti. L'ordine pubblico nei pressi degli stabilimenti è garantito dalle guardie rosse. Racconta Battista Santià. Nei giorni 10 e 11 settembre si ebbe un piccolo conflitto con qualche elemento della commissione interna, avendo noi proposto la costruzione di un autoblindo, impresa che non riuscimmo però a portare a termine essendo sprovvisti di lastre di acciaio. Fin dall'inizio di settembre il governo Giolitti, consapevole della situazione rivoluzionaria che si era creata, inizia i contatti con le parti più moderate dei due schieramenti e lavora incessantemente nell'ombra per raggiungere un accordo che prevede il cosiddetto controllo sindacale della produzione, che in realtà si concretizza in un parziale accesso ai dati contabili e gestionali delle aziende da parte delle burocrazie sindacali. Il 16 settembre, a Torino, carabinieri e reparti dell'esercito circondano le fabbriche. Si verificano scontri a fuoco. Gli attacchi vennero respinti dalle guardie rosse. Giolitti si rende conto che l'opporsi con la forza ad un movimento di oltre mezzo milione di operai, in buona parte armati e arroccati a difesa delle officine, sarebbe un errore fatale che potrebbe portare alla guerra civile, e quindi non fa intervenire massicciamente la forza pubblica contro le fabbriche occupate e capisce che fino a quando le masse seguono i dirigenti riformisti e fino a quando i telegrafi, i telefoni, le ferrovie, le prefetture e gli altri luoghi del potere istituzionale sono controllate dal governo, il potere statale non verrà messo in discussione. 25.000 guardie regie e 60.000 carabinieri risultano insufficienti per fronteggiare gli operai armati. L'arma migliore del governo rimane l'influenza che è capace di esercitare sui dirigenti socialisti politici e sindacali. I sindacalisti dell'USI, il gruppo del Soviet e quello dell'Ordine Nuovo sono per l'allargamento della lotta a tutte le fabbriche italiane, ma non riescono nel loro intento. Il movimento di occupazione delle fabbriche non attaccò le sedi istituzionali del potere politico, quindi la carica rivoluzionaria si affievolì e subentrò delusione e amarezza. La CGIL, in stretto collegamento con Giolitti e i suoi prefetti, fa di tutto per scongiurare uno sviluppo rivoluzionario. La Federterra è riluttante a chiamare alla lotta i braccianti in appoggio agli operai. Il 9 e il 10 settembre vengono convocati a Milano il Consiglio Generale della CGIL e la direzione del Partito Socialista, dove viene messa ai voti la rivoluzione, che risulta in minoranza. Il 19 settembre, nelle trattative sindacali, si giunge a un compromesso: aumento salariale di 4 lire al giorno, miglioramenti per quanto concerne le ferie, l'indennità di licenziamento. Per quanto riguarda il controllo della produzione, si istituisce una commissione paritetica di 12 membri che dovrà studiare la cosa e formulare delle proposte che servano al governo per legiferare. Le occupazioni continueranno ancora per una settimana. Gli operai sono senza salario da 3 o 4 settimane e la solidarietà non riesce a far fronte alle necessità di sostentamento. Il 24 e 25 settembre si tiene il referendum tra i metallurgici sull'accordo al quale partecipa solo un terzo dei lavoratori, ma tra i votanti il sì all'accordo vince. In realtà non verrà mai applicato. Il 26 settembre fu l'ultimo giorno di occupazione, poi furono ritirate le armi. La corrente massimalista maggioritaria nel PSI sconfessa l'operato dell'Ordine Nuovo, indicandolo come gruppo di scalmanati, irresponsabili e anarchici. Successivamente Antonio Gramsci nel 1921 affermerà: «Come classe gli operai italiani che occupavano le fabbriche si dimostrarono all'altezza dei loro compiti e delle loro funzioni. Tutti i problemi che le necessità del movimento posero loro da risolvere furono brillantemente risolti. Non poterono risolvere il problema dei rifornimenti e delle comunicazioni perché non furono occupate le ferrovie e la flotta. Non poterono risolvere i problemi finanziari perché non furono occupati gli istituti di credito e le aziende commerciali. Non poterono risolvere i grandi problemi nazionali e internazionali perché non conquistarono il potere dello Stato». In un discorso d'Aragona, segretario della CGIL, disse: «Noi siamo responsabili d'aver troppo concesso nel periodo della follia bolscevica, ma abbiamo la coscienza d'aver fatto tutto ciò che si poteva fare per frenare gli impazienti. Resta tuttavia onore e vanto nostro l'aver impedito lo scoppio di quella rivoluzione che dagli estremisti si meditava». In seguito D'Aragona scelse di collaborare con il regime fascista e di accettare la sua legislazione sul lavoro. In ottobre la polizia arresta tutti i membri della segreteria generale dell'USI con l'accusa di complotto insurrezionale nei confronti dello Stato. Dall'aprile 1919 al settembre 1920 si sono avuti 140 conflitti con esito letale tra forza pubblica e popolazione e complessivamente 480 morti e un migliaio di feriti gravi tra i lavoratori, escludendo le uccisioni e i ferimenti provocati dalle squadre fasciste e da quelle private pagate da agrari e industriali. Insomma, dopo i moti contro il caroviveri, le lotte dei contadini, gli ammutinamenti dei soldati, l'entrata in lotta degli operai con obiettivi politici, la posta non poteva essere altra che l'avvio della rivoluzione o la reazione fascista in Italia. I padroni si resero conto che il liberalismo di Giolitti non garantiva i loro interessi ed affidarono la loro difesa allo squadrismo fascista. Nelle tesi che Gramsci presentò al secondo congresso dell'Internazionale Comunista nell'estate del 1920 possiamo leggere: «La fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che precede o la conquista del potere politico da parte del proletariato rivoluzionario per il passaggio a nuovi modi di produzione e di distribuzione che portino una ripresa della produttività o una tremenda reazione da parte della classe proprietaria e della casta governativa». Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, secondo volume. Di Battista Santià, Con Gramsci, All'ordine nuovo. Di Roberto Bianchi, Bocci Bocci, I tumulti annonari nella Toscana del 1919. Sempre di Roberto Bianchi, Pace, pane, terra, il 1919 in Italia. Di Luigi Di Lembo, Guerre di classe e lotta umana. Di Paolo Spriano, L'occupazione delle fabbriche, settembre 1920. Sempre di Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, primo volume. Finisce qui l'ultima puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte, dedicata al Biennio Rosso 1919-1920.